Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Vi ricordate nei mesi scorsi quante prime pagine dei giornali dedicate alla delicata situazione di migliaia di contribuenti, i cosiddetti evasori per forza, erano stati definiti così, prendendo a spunto la famosa e clamorosa protesta delle partite IVA di Cagliari, ma anche di altre città italiane, contribuenti che si erano resi protagonisti di una serie di manifestazioni pubbliche contro gli uffici della riscossione, contro Equitalia, colpevoli a loro dire di azioni di recupero dei tributi non versati a causa della crisi azioni un po' troppo dure. Anche grazie a queste azioni di questi contribuenti che si sono sentiti esageratamente vessati, l'azione della riscossione è stata riorganizzata, ma la riorganizzazione prevede una serie di provvedimenti che hanno l'obiettivo di contrastare più efficacemente l'evasione fiscale. Allora noi oggi ne parliamo proprio perché molte cose cambieranno dal 1 ottobre prossimo. Chi si troverà a ricevere una notifica dal fisco per via di qualche reale o presunta inesattezza nella dichiarazione dei redditi avrà a che fare con un unico documento di accertamento con valore già effettivo per la riscossione. In sostanza scompariranno due capisaldi della vecchia riscossione: l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento. Allora, che impatto pratico avrà tutto questo? Noi oggi cercheremo di capire il funzionamento delle tempistiche e poi naturalmente come fare per difendersi, presentare un ricorso oppure adeguarsi alla contestazione e pagare. Tutto questo, tra l'altro, dobbiamo ricordare che oggi al centro della guida che esce con il Sole 24 Ore, accertamento e riscossione, come cambiano le difese del contribuente. Torna con noi questa mattina il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Con il quale ormai ci siamo abituati ad aprire la settimana, ben volentieri. Ringrazio e saluto per la sua presenza questa mattina, la sua consulenza tecnica soprattutto, la dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista ed esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore. Dottoressa, buongiorno e grazie. Buongiorno. Allora, su questo tema che per molti di voi so che è veramente una croce, una questione molto delicata per molti contribuenti, perché c'è anche la questione che è uscita anche la settimana scorsa di tutti quei contribuenti che naturalmente ricevono questi avvisi, a volte dai toni anche un po' troppo perentori, che vogliono mettersi in regola con le tasse non pagate magari negli ultimi 2-3 anni, perché la crisi economica appunto è stata durissima, ma in ogni caso il fisco appunto, come vi dicevo, è per chiede di essere rispettato, appunto chiede a tutti i contribuenti di essere in regola, ma qualche volta per questioni economiche appunto di mancanza di liquidità non ce la si fa, e allora i contribuenti chiedono anche di capire come poter fare per gestire queste situazioni così complesse. Stamattina parleremo, se vorrete, anche di questo. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di raccontarci i vostri casi in diretta, oppure ci potete scrivere come sempre al 349 238 66 66. Abbiamo anche la nostra casella di posta salvadanaio@radio24.it. Borse alla riscossa stamattina, mercato finanziario piuttosto positivo, anche se dopo i vertici del fine settimana di G20, Fondo Monetario Internazionale, nel corso dei quali non si sono prese decisioni concrete per la gestione della crisi dell'eurodebito, ma si sono avanzate nuove ipotesi appunto per poter gestire anche questa situazione delicatissima. Il mercato era partito male oggi e poi ci ha ripensato dopo un'ora dall'avvio delle contrattazioni, è girato tutto e adesso abbiamo un balzo di 2 punti abbondanti a Parigi e Francoforte, Londra più 0,43%, la City oggi un po' più timida, guadagna molto meno delle altre piazze europee, mentre Milano più 3,30% sul FTSE MIB. Stanno volando tutte le banche, probabilmente proprio perché si sta discutendo di questo maxi piano appunto per permettere una ricapitalizzazione di tutte le banche del vecchio continente di fronte ad una necessità di ricapitalizzarsi ancora. Di solito non è che i titoli bancari vadano bene, invece oggi gli investitori corrono a comprare tutti quei titoli che nei giorni scorsi veramente hanno toccato dei prezzi inimmaginabili. Intesa più 9, Intesa San Paolo, UbiBanca più 7,65, UniCredit più 6, Fondiaria più 6, Mediolanum più 4,86, Monte dei Paschi più 4,56, Generali più 4,42, tra i migliori titoli anche Atlantia più 4,73, Enel più 4, Mediaset più 3,73%. L'unico titolo negativo da stamattina è Saipem, il titolo perde l'1,32%, stamattina non ha toccato l'umore degli investitori anche l'IFO tedesco, di solito questo è un indicatore che quando è negativo appunto penalizza molto, le contrattazioni stamattina non è successo, è il dato che misura la fiducia delle imprese tedesche. In agosto è sceso al livello più basso da oltre un anno, ma appunto il mercato stamattina lo trascura nettamente. Per quello che riguarda appunto Saipem, essendo il peggior titolo della seduta, non ne conosciamo molto bene le motivazioni. Mercoledì il titolo aveva guadagnato molto settimana scorsa dopo l'aggiudicazione di due contratti in Canada e in Nigeria, e però insomma oggi il titolo viene abbandonato ed è l'unico negativo in questo momento a Milano. Euro su dollaro 1,3447, lo spread fra BTP e Bund sui 385-386 punti base. La borsa la lasciamo subito, andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo appunto della riscossione dei tributi da parte del fisco e delle novità che entreranno a regime dal 1 ottobre. Cambiano le modalità di accertamento e riscossione tributaria. Chi, stando a quanto risulta al fisco, non ha pagato correttamente le tasse, dovrà quindi fare i conti con un nuovo meccanismo, ben diverso da quello applicato finora. Le modifiche verranno introdotte dal prossimo 1 ottobre, per effetto del rinvio deciso dalla manovra di luglio. In precedenza c'erano tre diversi strumenti: la comunicazione attraverso l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento, contenente la descrizione di quanto si deve pagare, la tipologia del tributo, l'ente creditore, le scadenze e i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso, oltre che le istruzioni per chiedere la rateizzazione delle cartelle. Dal mese prossimo queste tre funzioni verranno accorpate in un unico atto di accertamento, che dà già diritto alla riscossione del tributo o all'esecuzione forzata, ovvero la procedura che si attiva in caso non vi sia un adempimento spontaneo da parte del contribuente e che può portare all'ipoteca o sequestro di beni. L'atto diventa esecutivo passati 60 giorni dalla sua notifica, o in ogni caso entro il termine in cui è possibile fare ricorso, che in alcuni casi può corrispondere a un lasso di tempo più esteso. Chi non vuole presentare ricorso può decidere di adeguarsi completamente alla contestazione del fisco e avrà quindi 2 mesi per pagare. C'è sempre anche la possibilità di ottenere uno sconto sulla cifra da versare, rendendosi disponibili alla procedura di accertamento con adesione, che congela per 3 mesi gli effetti del nuovo avviso di accertamento. 800 24 00 24, avete l'opportunità come sempre di interpellarci a questo numero verde per intervenire in diretta. In alternativa avete invece la modalità SMS 349-238-6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di tutto Giovanni Parente, informazioni pratiche. Oggi la guida del Sole 24 Ore, come al solito, permette ai lettori del quotidiano, ma se vorranno anche gli ascoltatori di Radio 24, di collegarsi al sito del Sole per girare le domande agli esperti che il Sole mette a disposizione su questo spinosissimo tema. Esatto, Deborah. I nostri lettori o i navigatori potranno collegarsi al sito www.ilsole24ore.com/accertamento e potranno inviare i loro quesiti fino alle 18 di oggi. I quesiti troveranno delle prime risposte sul quotidiano Domani in Edicola e poi tutte quante le risposte saranno pubblicate successivamente sempre sul nostro sito internet. In più c'è la possibilità di acquistare, oltre alla guida oggi in edicola, anche la guida online, che è ricca già di tutte le difese di cui potranno dotarsi i contribuenti, quindi i facsimili di ricorso, la precedente giurisprudenza, la possibilità di capire come funziona la rateazione, e il tutto sempre collegandosi all'indirizzo che ho detto prima, quindi www.ilsole24ore.com/accertamento, a un prezzo di 4 euro. Per quello che riguarda invece la modalità di invio domande al sito, l'invio è possibile fino alle 18 di questo pomeriggio. Quali sono i macro argomenti del forum? L'abbiamo diviso in 5 macro argomenti, quindi la sospensiva, la presentazione del ricorso, la modalità per presentare adesione al fisco, il pagamento e la rateazione. Allora, sono 4 gli esperti che il Sole 24 Ore mette a disposizione per rispondere a questi quesiti che stanno già cominciando ad arrivare, che continueranno ad arrivare nel corso della giornata. La dottoressa Rosanna Cerno con noi questa mattina è una di questi. Le stanno già inviando dei quesiti, dottoressa Cerno. Che cosa chiedono i contribuenti relativamente al tema che adesso anche noi inizieremo appunto a trattare nella trasmissione? Sì. Quesiti già ne stanno arrivando e riguardano principalmente come è possibile rateizzare eventualmente una cartella di pagamento, che quindi ancora adesso sta arrivando, e anche se il nuovo regime si applicherà ad esempio ad accertamenti relativi ad ICI, ovvero accertamenti relativi ad imposte per l'anno 2006. A questo proposito colgo l'occasione per ricordare che le nuove regole si applicano però soltanto agli avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette, quindi IRPEF, IRES e relative addizionali, nonché IRAP ed IVA, quindi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi a queste imposte dirette, IRAP ed IVA, relativi però soltanto ai periodi di imposta 2007 e quindi successivi. Pertanto per gli avvisi di accertamento relativi al 2006 non si applicano queste nuove regole che adesso andremo a spiegare. Oppure per esempio gli avvisi di accertamento relativi alle imposte di registro ipocatastali, oppure ancora avvisi di accertamento relativi ad attività di liquidazione e controllo formale della dichiarazione dei redditi, per intenderci per gli addetti ai lavori, quei controlli che l'agenzia fa sulla base dell'articolo 36 bis e 36 ter del DPR 600, quindi il controllo automatico della dichiarazione e quindi se i versamenti sono stati effettuati correttamente, ovvero sulla base di ulteriori informazioni che vengono richieste, come ad esempio le spese mediche che vengono quindi richieste e vengono accertate, tutti questi avvisi di accertamento, comunque a prescindere dai periodi di imposta accertati, non saranno esecutivi. Dottoressa Cerno, ho trovato subito molto significativa la prima indicazione che ci ha data, cioè che tutte le persone che chiedono consulenza agli esperti del Sole 24 Ore sono contribuenti che hanno necessità di rateizzare il versamento dei tributi, per cui chi non è in regola da qualche tempo a questa parte lo ha fatto, come dire, non è in regola suo malgrado, proprio per colpa appunto della crisi economica che è perversa, che ancora fa sentire pesantemente i suoi effetti e che ha reso necessario qualche volta rimanere indietro con il versamento dei, certo, dei tributi. Che sensazione ha? Sì, allora guardi, una bella notizia, se di belle notizie si può parlare, è che nel corso di queste manovre che si sono susseguite nel tempo è diventato un po' più semplice per il contribuente che vuole mettersi in regola con il fisco rateizzare. In particolare mi riferisco alla possibilità che il contribuente ha prima che il credito passi ad Equitalia, quindi per intenderci con le nuove regole l'accertamento, abbiamo detto, come giustamente ha detto la scheda, diventa esecutivo se entro il termine per la presentazione del ricorso il contribuente non procederà al pagamento. Ma quindi una volta ricevuto l'avviso di accertamento, che cosa può fare il contribuente? Entro il termine di presentazione del ricorso, che colgo l'occasione per dire che è un termine mobile, perché non dobbiamo dire soltanto 60 giorni, perché questi 60 giorni possono diventare 150 se il contribuente decide di presentare un'istanza di adesione, ovvero possono diventare addirittura 196 se si procede alla pausa feriale dei termini, cioè voglio dire se si ricade dal 1 agosto al 15 settembre, quindi si beneficia di ulteriori, certo, 46 giorni. Quindi sono oltre 6 mesi, sì. Esatto, quindi entro il termine di presentazione del ricorso, una volta notificato l'avviso di accertamento, il contribuente cosa può fare? Può decidere di pagare, quindi accettare totalmente quello che l'agenzia ha rilevato nell'avviso di accertamento, e in questo caso può ottenere intanto uno sconto delle sanzioni che si riducono ad un sesto, quindi la convenienza ci potrebbe essere, laddove si pensa che non ci siano chance per vincere in contenzioso oppure per patteggiare con l'amministrazione. Quindi ad un sesto vengono ridotte le sanzioni, non si pagano gli aggi della riscossione, che sono altissimi, sono pari al 9%, ed è possibile pagare a rate o un unico importo il dovuto. Le rate possono essere richieste direttamente all'ufficio creditore, e quindi le rate possono essere o 8 rate trimestrali o addirittura 12 rate trimestrali se il debito supera i 51.000 euro circa. Una bella notizia, ecco, è questa, che praticamente dal 13 luglio non sono più dovute le garanzie, quindi la rateizzazione è possibile senza la presentazione di garanzie, quindi polizze fideiussorie o bancarie. Ecco, quindi in sostanza, se ad un primo impatto le novità che entreranno in vigore dal 1 ottobre potevano sembrare, per l'eliminazione dell'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, un po' più come dire rigide, no? Perché l'avviso esecutivo, esatto, essendo uno, poteva sembrare appunto un avviso che ti arriva e quindi devi adeguarti a quanto il fisco ti chiede, appunto, e a tutto quello con cui sei rimasto in ritardo, in realtà poi le tempistiche, secondo come ci ha spiegato la dottoressa Acerno, sono molto più lunghe, molto più elastiche, soprattutto appunto se, come dire, la persona, il contribuente che è in difetto nei confronti del fisco, si attiva immediatamente con tutta una serie appunto di atti che la dottoressa Cerno ci ha spiegato. Eccoci ritrovati in diretta, oggi riparliamo del rapporto tra contribuenti e fisco, perché il fisco, come spiegano bene questa mattina sul Sole 24 Ore Giovanni Parente, che anche qui con noi a Salvadanaio, e Andrea Curiat, è pronto a lanciare la campagna d'autunno contro l'evasione. Dal 1 ottobre si apre l'era dell'avviso esecutivo e quindi che cosa cambia con quei contribuenti che non sono in regola con il fisco, ma che molto spesso lo sono non per così, perché fanno le orecchie da mercante nei confronti appunto dell'amministrazione fiscale, ma magari perché sono in difficoltà economica, come si sono trovate molte aziende nell'ultimo anno. Abbiamo tante volte parlato delle durissime campagne delle partite IVA, le manifestazioni di protesta della scorsa estate, lo ricorderete, quella clamorosa appunto di Cagliari e tante altre ancora. Allora, Giovanni Parente, peraltro, non abbiamo ricordato, ci sono molti ascoltatori che sono in genere molto appassionati anche proprio dei termini normativi. Quali sono i presupposti legislativi di tutte queste novità, soprattutto di quella che parte il 1 ottobre? Allora, prima di tutto cioè, bisogna dire che questa novità dell'accertamento esecutivo era stata introdotta alla manovra del luglio 2010 e aveva fissato come data di partenza il 1 luglio 2011. Molte di quelle proteste che citavi tu prima hanno fatto spostare l'entrata in vigore al 1 ottobre, prossimo 1 ottobre, sabato prossimo, perché nel contempo hanno un po' ridisegnato anche il quadro delle tutele del contribuente. Ad esempio, tutte quelle misure, quelle azioni cautelari si chiamano tecnicamente, ma vale a dire sono il fermo amministrativo o l'iscrizione di ipoteca, che equità, la ganascia fiscale detto ancora più semplicemente, che Equitalia poteva in qualche modo, a cui Equitalia poteva ricorrere con più semplicità in precedenza, adesso prevedono delle procedure rafforzate. Ad esempio, la ganascia fiscale sotto i 2000 euro ha bisogno di un doppio preavviso, Equitalia deve scrivere due volte al contribuente prima di inviarla. Le ipoteche hanno delle soglie limite, che ad esempio se è un immobile di abitazione principale del contribuente che è in debito nei confronti del fisco, il debito deve essere di 20.000 euro per poter scrivere ipoteca sull'immobile. Negli altri casi la soglia di ipoteca scende a 8.000 euro, ma comunque una difesa in più. E allo stesso tempo, sull'accertamento esecutivo va ricordata una novità importante, che Equitalia non può in alcun modo procedere ad azioni esecutive, non può fare un esproprio nei 180 giorni successivi al momento in cui ha avuto il mandato di riscuotere quell'accertamento esecutivo. Quindi questa è una tutela in più che consente al contribuente che vuole fare ricorso di andare in commissione tributaria a presentare il ricorso, fare allo stesso tempo una domanda di sospensiva, che significa io chiedo al giudice di non pagare l'importo che dovrei pagare provvisoriamente, che prima era del 50% e per effetto delle modifiche delle manovre estive è sceso a 1/3, e in quel periodo comunque, se il giudice mi risponde, sono comunque coperto da una garanzia che Equitalia non può farmi espropri. Ma questa richiesta di sospensiva, in sostanza, in qualche maniera il contribuente la deve rafforzare anche giustificando le motivazioni per cui ha bisogno di chiedere questa sospensiva. Per esempio, un piccolo imprenditore dice: guarda, non ho liquidità, la pubblica amministrazione alla quale ho fatto un sacco di lavori non mi paga, quindi io non sono nelle condizioni economiche di poter essere in regola con il versamento appunto dei tributi. Deve fare anche questo. Diciamo che ci sono due requisiti per poter essere ammessi alla sospensiva: deve essere fondata la ragione del contribuente e allo stesso tempo deve derivarne per lui un gravissimo pericolo, quindi anche in questo uno di questi è un caso di quelli che citavi tu, quindi non avere la liquidità e essere messo fortemente in difficoltà dal dover pagare l'importo provvisorio. Allora, andiamo subito, io saluto peraltro di nuovo anche l'altra ospite che con noi questa mattina, che è uno degli esperti del Sole 24 Ore, che risponde ai quesiti che possono essere inviati al sito del Sole 24 Ore appunto questa mattina fino alle 18 di questa sera. C'è tempo per inoltrare tutti i vostri quesiti, la dottoressa Rosanna Acerno, esperta in tematiche fiscali e tributarie per il Sole 24 Ore, oltre che dottore commercialista. Dottoressa Acerno, le faccio ascoltare alcuni casi in diretta dai nostri ascoltatori, cominciando con Maria da Lecce, che saluto. Maria, buona giornata. Anche a voi. Buongiorno. Allora, il quesito è questo: siccome c'è una pratica aperta con l'Agenzia delle Entrate che a settembre dell'anno scorso aveva accertato per una differenza sul TFR relativo all'anno 2006, aveva accertato una tassazione ulteriore di 10.000 e rotti euro. Avevamo un trattamento di fine rapporto, Maria, che aveva percepito lei, aveva terminato appunto di lavorare, è andata in pensione in sostanza. No, era un cambio di società e non avevano, il CAF non mi aveva fatto la compensazione per queste somme in più, insomma, per le tasse, non so dire. E quindi era a tassazione separata e quindi era uscito un disavanzo di 10.000 rotti euro, per cui si era fatto un piano di 20 rate di rimborso mensili. Ora, siccome fra giugno, luglio e agosto c'è stato che mio marito ha avuto due operazioni e quindi proprio la rata del 1 agosto purtroppo è non slittata. Ha potuto l'abbiamo pagata il 2 agosto, neanche, certo. Sì, allora volevamo sapere se per questa differenza di un giorno, tenendo conto che tutte le altre abbiamo sempre pagate anticipate anche, e per questa differenza di un giorno mi slitta la sanzione del 30% dell'imposta. Maria, grazie. Sentiamo la dottoressa Acerno, che cosa ci suggerisce di fare in un caso anche molto delicato come quello di Maria. Qua ci sono di mezzo problemi di salute, quindi situazioni anche personali e familiari molto delicate, ma anche di fronte a questo molta pietà del fisco purtroppo non c'è. Certo, sicuramente occorrerà recarsi presso l'ufficio, perché mi sembra di capire che la rateizzazione è stata richiesta all'ufficio e l'ufficio l'ha concessa. Sì. Quindi la prima cosa da fare è sicuramente recarsi presso l'ufficio ed esporre questo effettivo problema. Onestamente io credo che giustamente, in questo caso correttamente, la pubblica amministrazione, quindi sia l'agenzia che successivamente Equitalia, pur tenendo conto delle difficoltà che un contribuente ha, come in questo caso, onestamente non possano non applicare le sanzioni previste da legge per ritardato versamento. Quindi si passa subito al 30% sulla rata, dottoressa Cerno, anche per un giorno? Onestamente questo è da vedere, perché la nuova, anche nelle manovre estive hanno introdotto dei nuovi delle lievi sanzioni per i lievi omessi versamenti. Mi spiego meglio, quindi ci sarebbe una sorta di agevolazione proprio per per i piccoli ritardi sui versamenti. Adesso bisogna vedere se nel caso specifico la signora, come spero, può rientrare in questa definizione agevolata, quindi allora, evitare l'applicazione del 30%, ma una piccolissima sanzione. Ma se adesso io non so, tra l'altro la sanzione deve essere versata immediatamente, cioè Maria ha versato appunto questa rata con un giorno di ritardo, la sanzione del 30% va pagata contestualmente al versamento appunto della rata, dottoressa Cerno, oppure questa sanzione in qualche maniera arriva dopo da parte del fisco? La combinazione. In teoria è l'agenzia che la deve ricalcolare, quindi a conguaglio dovrebbe essere calcolata, non è che viene calcolata immediatamente, quindi la rata viene pagata normalmente in base a quello che era stato il piano di riparto così condiviso insieme, poi successivamente viene fatto il conteggio nuovamente per i ritardi sulle sanzioni e sugli eventuali anche interessi che dovranno essere versati, gli interessi al tasso legale. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa su questo caso? Potrebbe esserci un caso un po' simile a quello della bolletta, sostanzialmente. Il caso probabilmente la sanzione viene attribuita nella rata sulla bolletta successiva. Un ascoltatore ci scrive: se l'accertamento non è dovuto perché il contribuente ritiene di essere in regola, ma l'ufficio delle entrate la pensa diversamente e ritiene evaso l'importo richiesto, come può tutelarsi, dottoressa Acerno? Insomma, quanta fatica deve fare un contribuente per dimostrare di essere nella ragione quando invece il fisco ritiene contrariamente? In questo caso l'unico modo è adire un contenzioso, cioè vale a dire se il contribuente ha tentato la via dell'autotutela, quindi richiedendo all'ufficio di annullare l'atto per evidenti errori di calcolo o vizi formali, o laddove abbia intanto cercato di aderire e quindi di avere un patteggiamento, di concludere un patteggiamento con il fisco e non ci sia riuscito, laddove ritiene di aver ragione, l'unico modo è sicuramente impugnare l'atto, impugnarlo entro i termini del ricorso, quindi se ha fatto adesione, lo ripetiamo, entro i 150 giorni dalla notifica o 196 giorni, e chiedere quindi al giudice, attraverso l'impugnazione dell'atto, l'annullamento dell'avviso di accertamento. Questo è l'unico modo. Ovviamente proporre un ricorso non vuol dire non dover pagare, come abbiamo giustamente detto, perché se nel caso dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi dovrà comunque essere versato un terzo delle maggiori imposte, ovvero, applicando le vecchie regole, quindi per i vecchi avvisi di accertamento, il 50%. Quindi il ricorso si può fare, però prima il contribuente deve presentare la domanda di adesione, cioè dire: fisco, quello che tu mi contesti sono disposto a pagartelo, però contestualmente sarebbe comunque preferibile che il contribuente, che pure sa di aver ragione, cerchi di addivenire ad un accordo con il fisco, per evitare comunque un contenzioso che ha dei suoi costi. Allora, in questi 90 giorni che vengono concessi proprio sia al contribuente che all'amministrazione per addivenire ad una soluzione, è possibile che magari anche l'agenzia ritenga che sia più conveniente raggiungere un accordo e quindi rideterminare le maggiori imposte, le maggiori sanzioni e quindi gli interessi. È un po' come far passare però il discorso che il fisco ha sempre ragione a prescindere, perché comunque invitando il contribuente in ogni caso ad accettare la richiesta appunto di adesione, anche se lui ritiene di avere assolutamente ragione, di non essere non in regola appunto con il fisco, però se dice vabbè, allora guarda... L'adesione di solito è consigliabile per coloro che decidono, così facendo dei calcoli proprio molto semplici. Per coloro che invece, in base anche al rilievo che viene fatto e all'imposto, magari può essere più conveniente non adire il contenzioso tributario e quindi pagare un commercialista, un avvocato tributarista per farsi difendere, ancora il contributo unificato che sappiamo è stato introdotto sul ricorso, e quindi cercare un accordo con il fisco. Attenzione, fare un'istanza di accertamento con adesione non vuol dire però precludersi poi la possibilità successivamente di impugnare l'atto. Ecco. Quindi è un tentativo che si fa. Se poi questo tentativo va a buon fine, nel senso che il contribuente, facendo così un calcolo tra costi e benefici, ritiene opportuno di accettare alla fine quello che l'agenzia poi propone, che di solito in gergo, adesso si arrabbieranno gli amici dell'Agenzia delle Entrate, ma di solito appunto è uno sconto che si fa sulle maggiori sanzioni. Se questo sconto viene accettato, allora il contribuente paga entro i 20 giorni successivi alla riemissione di un atto, però ottiene anche uno sconto sulle sanzioni. Ho capito. Ho capito. Per il certo con l'incerto. E anche qui può rateizzare. Giovanni Parente, per quello che riguarda, come chiede un ascoltatore, gli oneri previdenziali INPS, questa è la domanda che ci rivolge Angelo al 349-238-6666. Ci sono, valgono sempre nuove regole che partiranno il 1 ottobre. Sono anche questi tributi interessati appunto al nuovo accertamento esecutivo? Allora, Deborah, bisogna dire che l'INPS ha fatto da battistrada, cioè ha fatto in qualche modo da un esperimento pilota, perché l'avviso di accertamento per i contributi previdenziali è in vigore, esecutivo, è già in vigore dal 1 gennaio 2011. Quindi Angelo si è perso questa novità che in realtà era partita già da mesi precedenti. Sentiamo Francesco da Napoli, che ripropone un po' il tema che abbiamo affrontato anche con l'altra ascoltatrice dalla Puglia prima. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio quesito è: io ho una rateizzazione, direttamente con l'Agenzia delle Entrate, per una rata che non ho pagato. Io comunque premetto che erano 72, la rateizzazione di 72, ho pagato fino alla decima rata. La quarta rata, per dimenticanza, perché tutte le scadenze erano il 30 di ogni mese, la quarta rata era il primo marzo. Per 15 giorni di ritardo io ho dovuto pagare, adesso vengo dal fiscalista, ho dovuto pagare il 30% in più chiedendo la rateizzazione adesso all'Equitalia, che ci saranno ulteriori interessi sulla rateizzazione. Quindi per una somma di 12.000 euro che io dovevo pagare. Quant'è la sua rata? La rata era di 890 euro mensili. E quanto? Trimestrale. Era. Io ne ho pagate 9, ne ho pagate. Dalla quarta rata che non ho pagato, loro già mi hanno calcolato il 30% di interesse. Quindi praticamente io dovevo 12.000 euro adesso per l'Agenzia delle Entrate, nonostante tutto che ho pagato 9 rate, devo ancora 11.000 euro. Allora Francesco, aspetti un po' lì che questo calcolo mi interessa. Dottoressa Cerno, quindi... Non ho però sotto mano la cartella, quindi no, vabbè, non adesso posso essere preciso. Facciamo così un ragionamento generale con la dottoressa Cerno, quindi non ho capito, ma la sanzione del 30% va calcolata sulla rata non pagata o va ricalcolata sull'intero importo? No, sulla rata non pagata sicuramente, non sull'intero importo. Sì, allora, se sembra un po' mutuo questo di Francesco, perché praticamente pur dopo aver pagato tante rate con gli interessi... No, la situazione è questa, però come dicevo precedentemente, è la legge, cioè sono le norme che prevedono questo. Quindi voglio dire, in tutto questo sia l'Agenzia delle Entrate che anche Equitalia in un secondo momento applicano quella che è una legge, quindi anche gli aggi della riscossione, che ricordo sono pari al 9% e sono altissimi, il 9% sul dovuto, questi anche andranno spalmati sulla rateazione, sono alti, ma è la legge che lo prevede. Comunque, per quanto riguarda Equitalia, come funziona? Intanto è bene precisare che il numero delle rate viene stabilito da Equitalia in maniera alquanto obiettiva, in quanto ci sono proprio delle direttive interne che prevedono, in base alla situazione del contribuente, quindi alla situazione personale del contribuente, se è una persona fisica all'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero in base a degli indici alfa e di liquidità, adesso senza entrare in tecnicismi. Sì, infatti, perché per purtroppo società, i nostri contribuenti hanno ben poca praticità. Sono indici di bilancio, quindi vengono definite le rate, quindi il numero delle rate. A questo punto però è anche vero che nel corso della rateizzazione, che lo ricordiamo è comunque un'agevolazione su cui sicuramente sono dovuti gli interessi legali, gli interessi di mora e ripeto gli stessi aggi e le eventuali sanzioni per ritardato versamento, perché è la legge che lo prevede, è possibile però sempre richiedere per il peggioramento della situazione una ulteriore dilazione. Con questo cosa voglio dire? Cioè, per prevenire l'eventuale ritardo del pagamento di una rata, se il contribuente è in difficoltà, ricordiamoci che ha la possibilità di chiedere ad Equitalia un'ulteriore dilazione. Però deve chiederla prima di essere rimasto in ritardo con una rata, quindi prevenire. Esatto, deve essere una richiesta preventiva. E devono in questo caso i contribuenti dimostrare ovviamente il peggioramento della situazione, quindi voglio dire, lo so che è un consiglio che adesso non vale per l'ascoltatore, però forse è il caso diciamo di muoversi un po' prima e quindi di richiedere un'ulteriore dilazione. E infatti, e non così, non immaginiamo come nel caso in cui mi pare di aver capito sia capitato all'ascoltatore di Napoli, che perché abbiamo tutte quante le scadenze il 30, se ce n'è una che comunque vale per il 15 del mese, quella bisogna rispettarla, non perché vogliamo, come dire, avere una certa organizzazione delle nostre scadenze con il fisco. Quindi poi non so se sia stato veramente un peccato di ingenuità da parte del nostro ascoltatore o una dimenticanza di altro genere. Detto questo, ci rimangono 2 minuti prima di salutarci, forse riusciamo a sentire velocemente ancora un paio di ascoltatori. Luigi da Monza, buongiorno, ma non so se ha avuto un avviso di accertamento da parte del fisco, forse le è successo qualcos'altro. Rapidissimo, grazie. Sì, pronto? Sì. Sì, buongiorno. Ci dica. Dunque, sarò velocissimo. Nel novembre del 2006 io non avevo i soldi per pagare gli acconti. Ho fatto il ravvedimento e ho pagato a marzo e a maggio in 2 rate. Sì. Il commercialista mi ha fatto il conteggio delle sanzioni e gli interessi. Adesso ricevo una cartella da parte di Equitalia del 30% dell'importo totale, in quanto non hanno tenuto conto di questo mio pagamento. Mi sono recato all'ufficio delle entrate e mi hanno detto che praticamente hanno riscontrato tutti i pagamenti che ho fatto, però mi ritengono nullo il ravvedimento, in quanto c'è una differenza di 1,50 euro sul primo versamento e di 3 euro sul secondo. Ma santo cielo. Luigi, il ravvedimento, cioè io sono costretto a pagare. Quanto deve pagare adesso? Mi ha sbagliato il conteggio degli interessi, in quanto lui dice che il programma, che adesso non faccio niente nel nome della chi gliel'ha procurato, non teneva conto che era un anno bisestile, quindi ha sbagliato. Luigi, si fermi lì un minuto di tempo. Luigi, che facciamo fare a questo ascoltatore? Tra l'altro adesso non so quanta sanzione avrà potuto pagare complessivamente per degli importi non corrispondenti, appunto, così marginali, però in qualche modo, allora, se ha un avvocato, insomma, in qualche modo tributarista di fiducia, consigliamo di verificare se è possibile esperire la strada del contenzioso, in qualche modo verificare se in qualche modo possa aver ragione, perché, e infatti Luigi, se vuole, se no ci scriva, magari mi faccio dare una mano dalla dottoressa Cernora, così a fare una verifica un po' più precisa del suo caso. Noi non abbiamo più tempo, io ringrazio Giovanni Parente e Rosanna Cerno, appunto, per essere stati con noi, per tutte le centinaia di migliaia di quesiti a cui non siamo riusciti evidentemente a dare una risposta per ragioni di tempo. Vi rimando alla guida che esce oggi con Il Sole 24 Ore all'indirizzo www.ilsole24.com/accertamento. Esatto. Giovanni, perfetto, quindi lì anche tutte le notizie che vi servono. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte oggi in assistenza tecnica. Domani c'è con voi Valeria De Rosa, io torno mercoledì. A tutti buona giornata.